ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, che pensa della mancata nomina a guardasigilli di Nicola Gratteri? Io non voglio assolutamente intervenire in queste polemiche che trovo anche sterili. Quello che penso io è che la cosa migliore che può fare un magistrato è continuare a fare il magistrato. Eleganza partenopea e rigore anglosassone, Franco Roberti da luglio 2013 è il primo magistrato d'Italia nella lotta alle mafie. Successore di Pietro Grasso nel ruolo voluto da Giovanni Falcone per coordinare dal centro tutti i fili delle indagini, per anni ha combattuto soprattutto gli affari della camorra e gli intrecci dei colletti bianchi da Napoli. Diplomatico e sobrio, allergico ad ogni polemica, con una sola frase, come avete sentito, fa trasparire la sua opinione sul caso politico-istituzionale più difficile che ha accompagnato la nascita del governo Renzi. La cosa migliore per un magistrato è che faccia il magistrato, scandisce Roberti, e con a ciascuno il suo stoppa le opposte tifoserie. Da una parte chi grida allo scandalo per la mancata scelta del PM anti-ndrangheta di Reggio Calabria, dall'altra quanti, compresa l'ANM, sono contrari al passaggio immediato di una toga dalla procura a via Renula. Tanto fermo nel bloccare le discussioni quanto rigoroso nel tracciare la sua idea di una giustizia da ristrutturare dalle fondamenta e di un sud, soprattutto il nostro amato sud, da affrancare dalla stretta dei boss e restituire alla sua bellezza. Sa perfettamente il procuratore nazionale antimafia quanto in Campania, in Calabria, in Sicilia, ancor più che altrove, i tempi lunghi dei processi, la mancata certezza delle pene si traducano in danni economici concreti sulla vita diretta di tutte le famiglie, a partire da quella nostra, a partire da quelle che con i clan non hanno proprio nulla a che fare. Ed è per questo allora che al nuovo governo e al nuovo guardasigilli, con l'urgenza che è dettata dallo stato d'emergenza, mi verrebbe da dire, la prima toga antimafia chiede ora di fare davvero presto. La base di partenza già c'è e sono le proposte delle due ultime commissioni in tema di giustizia, quella presieduta da Giovanni Fiandaca e l'ultima Garofoli, in cui ha partecipato lo stesso Gratteri, poi nominato sull'onda delle polemiche consulente antimafia del ministro. Entrambe le proposte contengono elementi innovativi molto significativi, riguardano sia l'azione di contrasto patrimoniale alle organizzazioni mafiose, una migliore funzionalità dell'Agenzia Nazionale per la gestione e destinazione dei beni confiscati, la modifica dell'articolo 416 ter del codice penale, il cosiddetto patto di scambio politico mafioso, la previsione del reato di autoriciclaggio che sarebbe importantissima. Lei quando si è insediata aveva posto l'attenzione soprattutto sulla necessità di normare il voto di scambio. Quella sarebbe una riforma essenziale. Secondo lei è questa la priorità? Una norma, ricordiamo che questa norma fu adottata con decreto legge subito dopo la strage di Capaci, se non che poi nel passaggio tra il decreto legge e la legge di conversione la norma fu mutilata, nel senso che fu tolto il riferimento alle altre utilità che potevano formare oggetto di scambio tra il politico e il mafioso, nel senso che il mafioso prometteva il sostegno elettorale e in cambio di denaro o di altre utilità. Nella conversione in legge rimase il denaro, che poi diciamo è addirittura improbabile che possa formare oggetto di voto di scambio tra il politico e il mafioso, e venne a cadere il riferimento all'altra utilità che invece è molto importante, sono appalti, sono aggiustamenti di processi, sono concessioni, sono tutto quello che può servire al mafioso per rafforzare il proprio potere e per arricchirsi. Ed è tutto quello che abbiamo visto anche in molte inchieste, anche queste ultime calabresi, questo ci raccontano, che hanno toccato anche vertici delle forze dell'ordine. Purtroppo sì, sarebbe una norma importante averla nella sua completezza, perché sarebbe uno strumento molto incisivo. Quindi lei, se dovesse dire al nuovo guardasigilli che cosa fare in questo momento, è diciamo sul fronte della lotta alla mafia e mettere in atto quello che è stato già messo nero su bianco in queste due commissioni, esattamente così com'è, null'altro da aggiungere? No, per la verità c'è anche un'indicazione di fondo: rendere più funzionale il processo penale per abbattere i tempi e anche alla criminalità non mafiosa. Bisognerebbe in qualche modo intervenire con modifiche, per esempio all'assetto processuale rispetto al grado di appello, rendere un po' più agile il processo penale. C'è il processo civile, la cui inefficienza spesso alimenta indirettamente le organizzazioni mafiose, perché scoraggia gli investitori onesti dall'investire nel nostro paese, e quindi aggrava la crisi economica, e aggravando la crisi economica dà spazio alle infiltrazioni mafiose in termini di riciclaggio e di reinvestimento nell'economia legale dei profitti illeciti. Se servono 8 anni per una procedura fallimentare, vi ripeto 8 anni, e sia Enna per le cause civili si aspetta 12 volte più che a Vercelli, si capisce in fretta allora perché, soprattutto nel mezzogiorno, i tempi lenti dei processi contribuiscono ad allontanare investitori ed imprenditori. Ed è quello che desiderano le mafie, le prime e direi le uniche, spero, a festeggiare davanti ad un dato terribile. Una giustizia civile, lenta, costa ogni anno 2 miliardi e 200 milioni di euro l'anno alle aziende. Vi ripeto, 2 miliardi e 200 milioni di euro l'anno alle aziende. Da una parte ci sono i danni, dall'altra ci sono i mancati guadagni, quelli degli investitori stranieri che non arrivano. Quando poi la più forte e immediata spending review possibile sarebbe proprio innanzitutto quella sull'economia criminale di ogni genere. Anche questo c'è nel pacchetto organico di revisione della giustizia annunciato dal governo Renzi, ma ogni riforma, avverte ora il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, è dimezzata senza una modifica della prescrizione. È arduo, ma è assolutamente auspicabile. È fattibile, secondo lei? Bisogna intervenire sulla prescrizione, che è troppo breve, falcidia tutta una serie di processi che sono importanti. Pensi ai processi di corruzione. I magistrati di tutte le varie realtà italiane sottolineano la necessità di rivedere la prescrizione e, da ultimo, anche l'Europa ha segnalato il problema. Ha segnalato anche l'Europa nell'ultimo documento, prescrizione, esatto, del 3 febbraio sulla corruzione nel nostro paese, che, ricordiamolo, è stata calcolata di un valore pari a 60 miliardi di euro l'anno, cioè il 4% del prodotto interno lordo. Ecco, quindi, procuratore, è un fenomeno gravissimo contro l'economia. Lei sa perfettamente come questo sia un altro argomento molto sensibile invece per il mondo della politica, però quello che lei dice mi sembra di capire, quello che anche molti magistrati dicono, è che se non si interviene su questo tipo anche di problemi, diciamo, il resto, non dico che è inutile, ma perde di valore se non si interviene sulla prescrizione. È così? Guardi, una giustizia che funzioni giova alla ripresa economica. Senza dubbio. Assolutamente. Quindi, poiché la ripresa economica è il nostro primo obiettivo di tutti noi, tutti dobbiamo contribuire a che questo avvenga, dunque dobbiamo rendere più efficiente la risposta giudiziaria. E quindi, diciamo, se non si riesce ad arrivare ad una sentenza perché interviene la prescrizione e quindi non c'è giustizia, è inutile fare tutta una serie di altri provvedimenti perché restano quasi dimezzati, diciamo, è così? L'intervento sulla giustizia è una priorità. Ecco, procuratore, a proposito degli interventi proprio ancora più strettamente legati al tema della lotta alla mafia, sono stati ipotizzati anche quelli riguardanti l'inasprimento ancora delle pene della 41 bis, la creazione di carceri ad hoc ed anche un meccanismo di teleconferenze per evitare anche spostamenti per la partecipazione alle udienze. Io credo che questi interventi siano opportuni. Non si tratta di inasprire il 41 bis, che secondo me già funziona bene, si tratta di superare il problema drammatico del sovraffollamento delle carceri. Nel nostro paese abbiamo una media nel rapporto tra detenuti e popolazione civile che è la più bassa d'Europa. Il problema è costruire nuove carceri, degni di un paese civile naturalmente, nei quali il detenuto possa effettivamente intraprendere un percorso di recupero, di riscatto e di riabilitazione. Quindi nuove carceri e non amnistia o indulto? No, quelli sono provvedimenti tampone che rinviano la soluzione del problema, non sono la soluzione del problema. Bisogna costruire nuove strutture carcerarie. Allora, andiamo a vedere un po' ad alcuni fatti che hanno anche creato un po' anche di preoccupazione. Il ritorno di una sigla, quella della Falange Armata, che è stata trovata in una lettera arrivata al carcere milanese di Opera, che era indirizzata appunto a Totò Riina. Quella sigla preoccupa perché era legata alle rivendicazioni degli attentati che ci furono nella stagione delle stragi del 93. Che cosa rappresenta, secondo lei, il ritorno di questa sigla? In che fase stiamo? Guardi, io credo che, come ha detto lei, questa sia una sigla e basta. La notizia di questa lettera risale al gennaio scorso. In ogni caso non è verificato nulla. La Falange Armata è una sigla che, diciamo, può essere usata da chi che sia. Non si riesce a capire esattamente quale reato avrebbero commesso gli imputati. Contesto storico, politico, nel quale l'accusa colloca l'evento trattativa è poco verosimile. Mi sembra veramente non condivisibile che ancora si ripeta che la trattativa fra lo Stato e i criminali possa essere in qualche modo giustificata, in qualunque modo. Lo Stato ha una sola scelta, quella di combattere il crimine, non di trattare col crimine. Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia. Di nuovo ci sono tensioni molto forti intorno alla procura di Palermo e al processo sulla trattativa Stato-mafia. E anche voi nella vostra relazione annuale esprimete preoccupazioni su alcuni punti e in particolare sulle contestazioni dei PM agli uomini di Stato che lì sono imputati insieme ai boss. Una bocciatura della linea della procura di Palermo? Io credo di avere spiegato chiaramente ai colleghi di Palermo che non c'è alcuna censura, alcuna critica e alcuna presa di distanze rispetto alla doverosa azione giudiziaria intrapresa in questo caso dai colleghi di Palermo, come sempre del resto. Noi ci siamo limitati, credo doverosamente, a segnalare la problematicità del processo, che è il processo in questo momento più importante che si sta celebrando nel nostro paese, almeno diciamo sotto il profilo mediatico. Ci è sembrato doveroso segnalare alcune problematicità fattuali e giuridiche, questo ripeto senza voler minimamente criticare la scelta dei colleghi di Palermo, nella quale peraltro non potremmo in alcun modo ingerirci. Forse tutto ciò che succede e che riguarda un po' Palermo, quella procura e in particolar modo un processo così delicato, diciamo, fa infiammare subito gli animi. Beh, ma questo non riguarda noi però, noi siamo sempre vicini alla procura di Palermo come a tutte le procure distrettuali, formiamo, io dico sempre, una sola squadra e abbiamo tutti lo stesso intento e lo stesso obiettivo, quello di contrastare efficacemente le mafie. Non sempre, diciamo, a proposito di procure antimafia, è stato vero quello di formare una squadra, le tensioni esistono anche all'interno del corpo della magistratura. Purtroppo sì, ma ripeto, io cerco di andare oltre, di superare queste tensioni e formare un vero spirito di squadra, perché solo così si vince. Le storie di mafia però non si incontrano soltanto nelle aule dei tribunali legate a vecchi fatti. I boss continuano a sparare, oltre che a macinare affari sporchi, e sotto ai loro colpi continuano a morire pure semplici passanti, persone uccise per sbaglio, per una somiglianza, per una coincidenza, come il ragazzo ammazzato davanti alle lampade abbronzanti, proprio come in una scena di Gomorra. Per questi morti innocenti riprendiamoci il tesoro dei boss, scrive Roberto Saviano. E ricorda quello che tutti da sempre ripetono a gran voce, l'assalto alle ricchezze dei clan, stimate fino a 170 miliardi, il 10% del PIL, secondo la Guardia di Finanza, è la rivincita migliore. E la legge che toglie i beni alle mafie è infatti uno degli strumenti più importanti dell'antimafia, insieme alla restituzione di questi beni alla società civile. Ma la verità è che, come più volte abbiamo denunciato e da anni in questa trasmissione, la verità è che purtroppo troppo spesso lo Stato scorda i beni di mafia. Case, terreni, aziende vengono lasciate deperire per mille problemi e questo non ce lo possiamo permettere per il nostro bene, titolo anche di un'inchiesta, reportage edita da Chiare Lettere. E l'emblema di questi problemi è l'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati, lasciata a lungo con 30 uomini e che rischia di essere una scatola vuota o poco più. Non ce lo possiamo permettere, concorda il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. L'Agenzia per i beni confiscati è uno strumento essenziale, un'istituzione essenziale, deve assolutamente funzionare. Le proposte per renderla più operativa, per renderla più efficiente ci sono. È inutile tenerla così se non le si danno gli strumenti di funzionamento. Le dico subito, il bene mafioso in assoluto è un bene difficile da gestire, quindi bisogna essere molto attenti nel gestirlo e nel destinarlo, come pure la legge del 96, a uso pubblico. Naturalmente ci possono essere casi in cui questa destinazione a uso pubblico non è possibile, in questo caso già la legge prevede che il bene possa essere venduto in condizioni di sicurezza. Nel senso che se poi si accerta che è stato venduto a qualche personale del mafioso, la vendita viene revocata e il bene rientra nel patrimonio dello Stato. Quindi lei è d'accordo laddove è necessario ad una vendita dei beni? Beh, certamente sì. Ecco, procuratore, il punto più dolente della gestione dei beni confiscati è quello della gestione delle aziende confiscate. I numeri dicono che sono pochissime quelle che sopravvivono al mercato una volta tolte alla gestione dei clan. Lei che futuro vede per il problema delle aziende confiscate? Ma io vedo un futuro che può diventare positivo se il bene, l'azienda, in questo caso l'azienda produttiva, viene gestita bene, amministrata bene da amministratori capaci e onesti. Poi se diciamo si riesce a mantenere attiva l'azienda, per fare ciò bisogna in qualche modo agevolarne la vita e la produttività, magari con agevolazioni fiscali, con la possibilità di accedere al credito bancario in modo più spedito, più facile. Ecco, insomma, bisogna avere un occhio particolare per le aziende confiscate, perché è essenziale, ripeto, è essenziale che esse continuino a funzionare, anche perché è questione di occupazione, di posti di lavoro, oltre che di produttività. È una sfida. Potrebbe essere un suggerimento, diciamo, per il nuovo guardasigilli, cioè quella di creare una strada preferenziale per le aziende confiscate, quindi con dei manager alla guida, ma delle aziende che possano avere, diciamo, canali, chiamiamoli privilegiati, di accesso al credito o di agevolazioni fiscali, visto che si tratta di aziende particolari. Sì, perché ogni azienda confiscata che chiude è una sconfitta, e questo non ce lo possiamo permettere. Questa è la sfida più alta che abbiamo davanti, e dobbiamo, ripeto, raccoglierla e portarla avanti con determinazione. Beh, fino adesso devo dire le aziende invece sono morte di fatto dopo la confisca, ne sono sopravvissute 63 su 1700 e rotti, e questi un po' ce le portiamo sulla coscienza un po' tutti. Purtroppo lei consideri che l'Agenzia dei Beni Confiscati è operativa dal 2010, diciamo dal 2011, certo. Quindi è ancora troppo poco tempo, bisogna anche darle tempo di fare un rodaggio e anche di ottenere con modifiche normative quei miglioramenti strutturali e soprattutto finanziari, di risorse e di capacità di gestione che finora le sono un po' mancate. Sono tante le difficoltà che ci sono su questi beni, che hanno delle storie molto complicate, ce ne sono tanti anche che sono proprio diroccati, c'è chi dice che bisognerebbe anche abbatterli. Potrebbe essere ammessa anche la possibilità di recuperarli. Mi sembra di capire che lei preferisca però sicuramente Io sono sempre per la conservazione di questi beni. È la strada più, sicuramente più costosa. Per questo dico che la lotta alle mafie deve essere in tutti i suoi momenti, in tutte le sue articolazioni, una priorità per lo Stato. È una lotta che costa, però vale la pena di combatterla. Vendere solo se è indispensabile, ma soprattutto creare canali particolari per le aziende tolte ai boss, perché quando arrivino nelle mani dello Stato non appassiscano, come invece succede ora. Questa è l'idea del procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, convinto anche che lo Stato debba rosicchiare ogni centimetro ai boss, e non sempre ci riesce in realtà, soprattutto quando succede che una cartella esattoriale di 2000 euro da pagare in 24 ore porta un pizzaiolo a togliersi la vita a Pomigliano d'Arco e porta il fratello Arcangelo De Falco a gridare la camorra gli avrebbe dato più tempo. Prima cosa è la camorra, quando entra in un negozio sa se può pagare o non può pagare. Poi quando entra in un negozio dice ci vediamo a fine mese, dammi quello che mi devi dare. Anzi, addirittura la può chiaratizzare. Il governo che io mi deve titolare mi dà 24 ore. Le cosche magari ti danno credito più facilmente, ma poi si riprendono il credito, e magari se hai un'azienda si riprendono pure l'azienda, insomma, quindi ti tolgono la vita alla fine le cosche. Capisco lo stato d'animo con cui queste cose vengono dette, però diciamo sono inaccettabili, perché non vere. Però ecco, è vero che lo Stato dovrebbe, soprattutto in momenti di crisi, essere sempre molto vicino ai cittadini. Le mafie vincono, o almeno guadagnano spazio, quando danno l'impressione di poter essere vicine ai cittadini più di quanto non lo sia lo Stato. Bisogna contendere ogni centimetro alle mafie. Abbiamo la nostra sede a Milano e l'attenzione è concentrata chiaramente a Milano sul fronte delle mafie, sul prossimo Expo. Voi anche nella vostra relazione dedicate un capitolo alla presenza forte dell''ndrangheta in Lombardia. Anche alla luce di questo, lei è preoccupato della sfida sull'Expo? Noi abbiamo acceso da tempo un riflettore sull'Expo. Siamo componenti del comitato sulle grandi opere e diamo il nostro contributo di conoscenza e assicuriamo la circolazione delle informazioni per rendere gli appalti dell'Expo sempre più impermeabili alle infiltrazioni mafiose. E voi che pensate dei beni confiscati e delle aziende tolte ai boss? Rimetterle più spesso sul mercato se questo dà più lavoro? Mi farebbe piacere che mi rispondessero soprattutto gli amici del Sud. Possono farlo sulla pagina Facebook di Storiacce oppure sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate di A Ciascuno il Suo, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!